Con lo storico Alessandro Portelli per parlare del documentario A Strike and an Uprising in Texas di Anne Lewis, un'anteprima romana, all'Apollo 11, mercoledì 3 ottobre. Alessandro, ben trovato. Ben trovati a voi, buongiorno. Sarà una proiezione accompagnata dalla tua introduzione e poi al termine della proiezione discuterai del film con la regista. E per chi ci ascolta, descriviamo un po' questo titolo. Ma sì, dunque, diciamo che Anne Lewis viene da una lunga storia di documentarista, è stata l'aiuto regista di un classico, Harlan County USA, premio Oscar nell'87 sulle lotte dei minatori. Lei ora vive e lavora a Austin, in Texas, e il Texas non è che sia uno dei luoghi a cui uno pensa quando pensa alle lotte proletarie o ai movimenti, e tuttavia invece lei ha documentato due momenti, tre momenti importanti della storia civile, della storia democratica di questo paese. Uno, che è quello assolutamente straordinario e mai raccontato, che è lo sciopero del 1938 delle donne, quasi tutte donne latine, messicane, messicoamericane, che lavoravano a sbucciare manualmente le noci pecan, quindi a schiacciare, perché era un lavoro che già si poteva fare a macchina, ma costava molto meno farglielo fare, praticamente pagandole 5-6 centesimi l'ora a queste donne, che non avevano diritti civili, non erano cittadine, non erano iscritte al sindacato, a niente, ma lo sfruttamento, la rabbia tale che proclamano lo sciopero, la polizia gliene fa di tutti i colori, li arresta in massa, e più li reprimevano, più cresceva la rabbia, fino a che riescono effettivamente a ottenere un minimo di risultati decenti. Questo è il punto, ed è anche la storia della creazione di una leader, di una donna comune, una donna che lavorava a questo mestiere assolutamente infernale, che si rivela una leader naturale e poi diventa appunto un punto di riferimento, una vera e propria eroina del movimento operaio in Texas. Poi segue appunto la memoria, come la memoria di questa lotta entra nel movimento per i diritti civili e quindi per l'abolizione delle norme di discriminazione razziale, e finisce con una cosa di assoluta attualità, che quando gli studenti dell'Università del Texas ottengono che dal campus dell'Università del Texas venga finalmente tolta la statua di Jefferson Davis, che era il presidente dei secessionisti schiavisti del Sud nella guerra civile. Quindi è un po' una storia delle battaglie operaie e civili in un posto dove il dominio di classe, anche il potere quasi assoluto dell'establishment politico repubblicano, sembrerebbe schiacciare ogni forma di soggettività alternativa. Quindi le documenta invece come, no, come la resistenza ci sia sempre stata e ci sia tuttora. Alessandro, qual è stato l'approccio della regista a questi due episodi storici importanti? Ma essenzialmente lei è stata molto influenzata appunto da tutto il discorso della storia orale, Sì. quindi essenzialmente usa due strumenti fondamentalmente. Uno è le interviste ai protagonisti, che ancora raccontano, ancora ricordano, e sono delle interviste straordinarie. Tra l'altro il film lo proietteremo con i sottotitoli in italiano, quindi sarà decisamente più accessibile. E, da un lato, dall'altro naturalmente tutta una grossa documentazione d'archivio, quindi fonti, immagini, spezzoni di cinema, foto, documenti, eccetera. Tra l'altro è molto bello anche il modo in cui le persone che hanno partecipato alla lotta hanno conservato la documentazione, il ricordo, non solo come memoria personale, ma anche come documentazione scritta e visiva. E con direi un taglio di approccio cinematografico in cui, diciamo, quello che conta moltissimo è rendere attraverso l'immagine, il modo di presentarsi davanti alla camera, mi viene a dire la dignità, ma è poco la fierezza, la bellezza profonda di queste persone. Alessandro, già avevi avuto modo di incontrare la regista Anne Lewis? Beh, io penso, io l'ho conosciuta nell'83, quando era ancora in Kentucky a Harlem, intervista di lei aveva sposato un minatore della contea di Harlan County, quindi, e adesso poi in realtà è qui con noi, è qui già in Italia, perché siamo adesso a Bologna, dove oggi pomeriggio presentiamo il film Harlan County USA sulle lotte dei minatori nel Kentucky, con un'iniziativa fatta dalla FIOM, dal Sindacato Metalmeccanici. Che impressione hai rispetto alla sua figura e al suo tipo di ricerca cinematografica? Documentarista ormai espertissima, ha fatto centinaia di film e a me colpisce molto, una delle ragioni per cui in tutto questo tempo sono rimasto in contatto anche quando non ci vedevamo e per cui ho molto appoggiato questo suo ultimo film, una combinazione, diciamo, di rigore filmico, di grande consapevolezza dell'uso del mezzo, intrecciata con un rigore politico, con una passione politica radicale, mai spenta. E in un certo senso il rigore, del lavoro sull'immagine, l'accuratezza e il rispetto dell'editing sono una forma di espressione della passione politica, della necessità di far conoscere la presenza storica di questo complesso mondo popolare, che ha fatto documentari sui musicisti popolari, su tutte le forme possibili di articolazione, di lotta, neanche necessariamente di rivolta, ma anche semplicemente di resistenza alle condizioni di emarginazione e di sfruttamento, in tutte queste parti degli Stati Uniti, che sono appunto quelle più difficili, che sono il sud, soprattutto questo sud-ovest del Texas. Questo vostro tour avrà altre tappe dopo Roma? E temo proprio di no, perché lei deve tornare a Austin, deve tornare a lavorare, però il film ci rimane e forse troveremo modo di proiettarlo in altre occasioni. Bene, allora magari avremo modo di risentirci. Ricordiamo l'appuntamento all'Apollo 11, mercoledì 3 ottobre, con il documentario A Strike and an Uprising in Texas di Anne Lewis. Introduce, ne parla poi con la regista Alessandro Portelli. Alessandro, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto.